24, i gialli della storia. Le spoglie di Vincenzo Florio, spentosi in un piccolo paese di Francia, attraversano per l'ultima volta Palermo, uno degli ultimi cavalieri dello sport che egli considerava come fonte di educazione accanto alle altre sue iniziative sociali con le quali onorò la sua Sicilia. La morte di Vincenzo Florio chiude l'epopea di una famiglia che ha cambiato la storia e lo sviluppo di Palermo e di tutta la Sicilia. Una famiglia che già all'inizio dell'Ottocento ha immaginato e trasformato Palermo in un grande centro industriale e culturale del Mediterraneo. I Florio, infatti, non creano solo un solido impero economico, ma propongono anche uno stile di vita moderno, raffinato, elegante. Le attività della famiglia spaziano dalla flotta commerciale all'industria del tonno in scatola, dalle banche ai grandi alberghi. E ancora una gara automobilistica, la Targa Florio, che fa conoscere all'Europa i paesaggi straordinari delle Madonie. Straordinaria anche Donna Franca Florio, moglie di Ignazio, una donna bellissima, affascinante, curiosa, madre affettuosa, regina dei salotti palermitani, ammirata da tutti i potenti d'Europa. È cantata anche da D'Annunzio. Oggi a Mix 24 la storia di una famiglia siciliana che ha segnato un'epoca. La parabola dei Florio è durata circa 150 anni, durante i quali si è consumata la vicenda umana di quattro generazioni e si sono sviluppate le più importanti iniziative industriali della storia dell'isola. Prima i due fratelli Paolo e Ignazio si trasferirono a fine Settecento dalla Calabria a Palermo, diventando in breve tempo ricchi mercanti di droghe, pionieri tra due secoli di guerre e rivoluzioni. Poi Vincenzo, commerciante, industriale, banchiere, abile e determinato, che giganteggia per tutta la prima metà dell'Ottocento, spregiudicato quanto basta per non farsi sopraffare dalla politica. Poi Ignazio Florio, senatore del regno, amico di Crispi, ormai a capo di un grande gruppo industriale che si rese conto della necessità di creare un ponte con gli ambienti del capitalismo settentrionale per non restare isolato. Infine l'ultima generazione, ancora due fratelli, Ignazio e Vincenzo Florio, protagonisti assoluti della vita mondana e della modernità, grazie anche a una figura simbolo come Franca Iacona Notar Bartolo di San Giuliano, moglie di Ignazio. Franca era, diciamo, un esponente della jet society di quel tempo, ma era anche una che era capace di tessere rapporti e relazioni a livello internazionale e, in un certo senso, oscura pure la figura di suo marito. Non era solo la bellezza quella di Franca Florio, ma era evidentemente un suo fascino, un suo modo di rapportarsi verso le persone. Aveva qualcosa in più. È singolare che a Palermo, tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, si incontrino due flussi migratori. Quello dei mercanti bagnaroti, che dopo il terremoto del 1783 sempre più numerosi si erano trasferiti, e quello dei mercanti inglesi. I fratelli Paolo e Ignazio Florio arrivano a Palermo provenienti da Bagnara Calabra a fine Settecento. I bagnaroti erano specializzati nel commercio del legname, delle droghe, delle spezie. Erano anche proprietari di piccole imbarcazioni. Questa migrazione dei bagnaroti ebbe delle conseguenze importanti sull'economia di una città come Palermo, ma anche di altre località della costa nord-occidentale della Sicilia. Alla morte di Ignazio Florio nel 1828, il titolare della casa, unico titolare della casa, diventa il giovane Vincenzo. E Vincenzo Florio, che non era ancora trentenne, riuscì ad espandere la sua attività nei settori più disparati, a cominciare dalle tonnare. Cominciò ad affittare delle tonnare all'Arenella e in altre località e diede un tale impulso alla produzione del tonno e alla sua lavorazione che diventò un'industria vera e propria. La vendita delle spezie occupa soltanto il primo periodo dell'attività dei Florio, un grande negozio al centro di Palermo, poi l'industria del tonno. Ma creativo e infaticabile, Vincenzo Florio differenzia le sue imprese. Produce e vende nuove bevande alcoliche, poi le esporta in Europa attraverso una moderna rete di collaborazione con i mercati inglesi. L'incontro tra Benjamin Ingham e il giovane Vincenzo Florio favorì la realizzazione di alcune iniziative sul piano commerciale, ma anche su quello industriale, tra le quali ricordiamo per esempio la costituzione della Società dei Battelli a Vapore Siciliani. Questo incontro con Ingham ebbe notevole importanza, certo, per Vincenzo Florio, ma direi per l'economia siciliana in generale. Perché? Perché gli inglesi scoprono il Marsala molto prima che lo scoprissero i siciliani o che lo scoprisse lo stesso Vincenzo Florio. L'inserimento di Vincenzo Florio nel 1834 è un momento importante sia per la storia della famiglia sia per la storia del vino Marsala. Intanto, rispetto agli altri mercanti inglesi, Woodhouse, Ingham o i Corlett, Breck, Wood, che pure si inserirono in questo mercato di grande commercializzazione, la scelta dell'imprenditore Vincenzo Florio fu quella di rivolgersi soprattutto al mercato nazionale, più che fare la concorrenza, una concorrenza che sarebbe stata persa già al nascere, con Ingham che aveva il predominio del mercato americano o con i Woodhouse che avevano il predominio del mercato del nord Europa. Intorno agli anni 50 dell'Ottocento la produzione calcolata in botti era del tipo 1400 botti prodotte da Vincenzo Florio contro le 4000 prodotte da Ingham. Le cose cominciano a cambiare sensibilmente nella seconda metà dell'Ottocento, quando Vincenzo Florio e il figlio, il senatore Ignazio Florio, investono sempre di più nell'azienda per modernizzarla. Il primo impianto di imbottigliamento meccanico si realizza ben prima che non alla Ingham o alla Woodhouse. Ma tutto questo alla famiglia Florio non basta. Nel 1861, dopo la fine della monarchia borbonica, c'è la necessità di creare un sistema postale interno alla Sicilia. Poi, al di là dello stretto, verso Genova e Napoli, Florio guadagnano il monopolio e in poco tempo passano dalla gestione di 4 navi a 41 navi. Negli stessi anni cresce la grande migrazione verso il Nord America. Anche in questo settore le navi dei Florio diventano protagoniste. Attorno al 1880 i Florio iniziarono il servizio verso il Nord America e iniziò il trasporto degli emigranti. Questo servizio fu visto molto bene dalle autorità americane ed è chiaro che il prestigio dei Florio aumentò vie più. Quando nel 1868 Vincenzo Florio muore, lascia al figlio Ignazio un patrimonio familiare valutato intorno ai 12 milioni di vecchie lire. E Ignazio, che nel frattempo ha sposato Giovanna Dondes Reggio ed è entrato nel jet set dell'aristocrazia palermitana, fino alla sua morte nel 1891 costruisce un grande impero finanziario e industriale. I borghesi siciliani, come tutti i borghesi, hanno un problema di legittimazione. Il rapporto con la nobiltà non è un tradire le proprie origini, è il tentativo, nei Florio riuscitissimo, perché tutti i Florio poi sposeranno, a partire da un certo momento si imparenteranno con le casate che sono Dondes Reggio, Trabia, con le casate più importanti dell'aristocrazia siciliana, ma perché è un percorso di legittimazione sociale che è importante per i borghesi, non solo in Sicilia ma ovunque, perché avevano bisogno di essere accettati, perché erano portatori di un ordine nuovo. Ignazio Florio ha un capitale di oltre 12 milioni di lire all'epoca, ma la sua crescita imprenditoriale non si arresta. A fianco dei vini e delle tonnare, Florio avviano l'estrazione dello zolfo e la realizzazione di una fonderia per costruire pezzi di ricambio necessari alla loro flotta. Ma la maggiore intuizione industriale è la nascita della società Navigazione Generale Italiana attraverso la fusione con la società Rubattino di Genova. Diventerà la più grande compagnia di navigazione italiana. Mm. La nascita della navigazione generale era un'esigenza avvertita in tutti gli ambienti, da Genova a Palermo, di creare una sorta di monopolio che potesse competere con le grandi compagnie di navigazione che già c'erano presenti nel Mediterraneo. E in verità, all'appuntamento dell'81, Florio è molto più pronto e potente di Rubattino. Attorno alla navigazione generale italiana, Ignazio costruisce un sistema imprenditoriale diffuso che fa capo soprattutto alla grande produzione enologica, ai vini, alla realizzazione delle tonnare, delle Egadi. Questa sarà l'azienda che fino alla fine costituirà un cespite attivo. I Florio trasformarono l'industria conserviera del pesce appunto in un'impresa mondiale, e a Favignana ci sono ancora i resti di questo singolare impero. Con la costruzione dello stabilimento Florio a Favignana si realizza il più moderno e importante complesso industriale di lavorazione e conservazione del tonno esistente nel Mediterraneo. Ma Ignazio Florio, un uomo attento e intelligente, capisce presto che la forza della Sicilia e di Palermo sta nelle capacità artigianali, ed è proprio dalla valorizzazione di queste forze che nascono tutte le imprese Florio. E c'è un altro impegno che Ignazio sente di dover compiere, quello di coniugare l'industria con l'arte. Naturalmente la stagione più importante è quella che vede il legame tra Ignazio Florio e Ernesto Basile, e il legame si concretizza in una serie di straordinarie realizzazioni architettoniche che sono al passo, all'unisono con quello che è il grande gusto dell'Art Nouveau europea. Le più importanti sono il Villino Basile, che in realtà è una committenza di Vincenzo Florio, e naturalmente Villa Igea. L'ultima generazione dei Florio, Ignazio e Donna Franca, è stata legata storicamente al rapporto di committenza con Ernesto Basile, con Damerie Bergler e con altri artisti di questo gruppo palermitano del modernismo, che ha fatto una pagina importante della storia del liberty italiano. Proprio in Villa Igea, come anche il Villino Florio, si realizza una incredibile convergenza tra architetti, maestranze, decoratori, pittori, scultori, che parla proprio il linguaggio internazionale del modernismo. E siccome in quel periodo Palermo era ancora una città dove ci si curava per il clima, loro ospitarono la crema della buona società europea e anche dei regnanti. Il Kaiser, Guglielmo II, venivano anche dalla Russia. E la Franca Florio era dama di compagnia della regina d'Italia. I Florio, attraverso le loro relazioni, sono la famiglia più potente di Palermo, ma anche più ricchi e moderni. E le alleanze politiche diventano un grimaldello per aprire molte porte, come il loro rapporto con il primo ministro Francesco Crispi. Certamente i Florio avevano una grandissima capacità di manipolare relazioni politiche. Se parliamo di Crispi, la relazione però era alla pari, perché Crispi era il più importante uomo politico dell'Italia di fine secolo. Era un siciliano, come succedeva a questi uomini politici dell'Italia liberale, era molto attento alla tutela di interessi locali, e quindi, siccome l'interesse dei Florio era di gran lunga l'interesse più importante a Palermo, Crispi era strettamente legato a questi interessi e faceva una politica di do-des. Crispi garantiva i finanziamenti per la società dei Florio, e in cambio i Florio garantivano a Crispi che, come si diceva allora, venisse mostrata la bandiera, cioè la marineria italiana fosse in grado di arrivare in tutte le parti del mondo e nell'occasione la marina commerciale potesse supportare gli sforzi, ad esempio, colonialisti o militari in genere del governo italiano. È il caso del 1887, la prima importante spedizione nell'Africa orientale, e poi durante la guerra che portò alla sconfitta di Adua nel 1896. La fine del secolo XIX porta l'Italia dentro una profonda crisi economica e politica, e la crisi finirà col coinvolgere in maniera definitiva anche la famiglia Florio. Nel 1893-94 il sistema bancario italiano entrò in una drammatica crisi economica, non si salvò nulla, il fallimento del credito mobiliare determinò un buco, direi una voragine nella situazione finanziaria dei Florio. Non so quantificare la somma impegnata da Florio, ritengo che sia rilevante. Rilevante perché subito dopo noi vediamo che Florio è in difficoltà. Nessuno se ne accorge, nessuno se ne accorgerà a Palermo per i 15 anni successivi quasi, però lui è in difficoltà. Crispi con la fine del colonialismo italiano di fine Ottocento esce di scena e nel primo Novecento il quadro si fa immediatamente più cupo. Nel 1899 lui è costretto a concedere una ipoteca sulle isole Egadi. Ora, Florio accettava lui le ipoteche verso altri, ma non aveva mai concesso ipoteche, almeno le generazioni precedenti non avevano mai ipotecato niente. I Florio cominciavano a subire i colpi della crisi di tutto il gruppo industriale e quindi, anche se la Florio era un'azienda sana, anche se le tonnare erano i due gioielli di famiglia, l'indebitamento progressivo nei confronti delle banche imponeva la dismissione di queste aziende sane. Quando la situazione debitoria dei Florio comincia ad essere evidente nel 1908, la Banca d'Italia fa un intervento importante di valutazione del debito per tentare di salvare una delle più prestigiose famiglie imprenditoriali italiane. A quel punto si muove il mondo politico. Giolitti interviene presso Bonaldo Schlinger, che è il direttore generale della Banca d'Italia, corrisponde all'attuale governatore, che tentò nel 1909 un concordato con le banche e con i creditori per un salvataggio che ovviamente avrebbe richiesto ai due fratelli Florio, Ignazio e Vincenzino, una politica di rigide economie e una amministrazione controllata delle loro imprese. Nonostante una profonda crisi economica, nel 1906 il giovane Vincenzo crea un avvenimento sportivo che farà entrare la famiglia Florio nella leggenda. È la Targa Florio, una gara automobilistica nelle straordinarie, polverose strade delle Madonie. La grande famiglia Florio finisce con i primi del Novecento. Ma nei primi del Novecento, stranamente, il cadetto della famiglia Florio, Vincenzo, regala a questa famiglia l'immortalità attraverso questa gara incredibile, questa gara mito, che è la Targa Florio. Nel 906 lui porta in Sicilia e dà il via a questa grande piazza. Florio lancia la sfida in una Sicilia piena di strade polverose, tortuose, solcate solo dalla trazione animale. Pensare una competizione automobilistica nella rete stradale siciliana dell'inizio del Novecento con automobili veloci è qualcosa che certamente colpisce l'immaginazione, e tra le ragioni di attrazione vi era questo contrasto tra un mezzo tecnologicamente all'avanguardia e il supporto stradale che non era sicuramente adeguato. Florio, 100 anni fa, introduce dei concetti di comunicazione e di marketing incredibili. Tutti devono sapere che in Sicilia si corre la corsa delle corse. E quindi lui mette in condizione la stampa di allora di avere queste notizie. E volle assolutamente che attraverso il telegrafo si avessero i dati in tempo reale a Palermo, affinché da Palermo fossero trasmessi in tutte le parti del mondo. E quindi il nuovo secolo irrompe con il rombo dei motori nelle Madonie. Quello che viene negato dallo sguardo europeo che si posa sulla Sicilia è la modernità. È come se, quando guardano verso la Sicilia, gli europei la modernità se la lasciassero alle spalle, se la lasciano alle spalle, perché provengono dai grandi distretti industriali, provengono dalle aree dove è vitale e forte la rivoluzione industriale. I Florio stanno lì, proprio in quel passaggio. In fondo, con la targa Florio, la Sicilia entra prepotentemente nella modernità. La competizione è un successo che continua negli anni e regala ai Florio un posto nella storia. Anche se l'avventura industriale durata 150 anni si è conclusa negativamente, attraverso la targa Florio la famiglia è entrata nel mito. I Florio alla fine non erano altro che dei grandissimi commercianti che avevano imparato dai grandi commercianti inglesi, che erano quelli che nella prima metà dell'Ottocento avevano messo la Sicilia a contatto con il più vasto mondo attraverso i mari. I Florio erano quelli locali che avevano imparato meglio degli altri e che avevano colto questa grande occasione. Dal punto di vista della storia economica, questa grande occasione sostanzialmente dura dal 1830 circa alla Prima Guerra Mondiale circa. Una grande occasione per l'economia meridionale ed è, non a caso, la grande stagione dei Florio. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.